Come faccio a dirti che non mi piace il nome di tua sorella, il tuo freno motore, il tuo tenermi nascosto agli occhi del mondo, quando è il mondo che non sai guardare e tutti i tuoi consigli servono a poco. Sono bravissimo a sbagliare da solo, come faccio a tenere lontana questa canzone da chi non la deve ascoltare. Se sapesse quanto ho scritto di te, ti farebbe un contratto il mio editore. Mi porteresti a Sarajevo nell'autunno dei 30 anni e non dovresti più lavorare. E cammino al telefono su un giro di do, anche adesso che un po' ho imparato a suonare. Perché sei come me, più sei leggera, meno sei superficiale. Ti ho segnato in un ufficio FS, cantavi in francese allo sportello reclami. Ti prendevano in giro tutti i miei amici travestiti da ballerine e da nani. Di che cosa hai paura davvero? Forse che la gatta scappi per le scale. Non sai quanti invidi gli animali, loro capiscono sempre da chi tornare. Vorrei una domenica pomeriggio per ogni lunedì che non ho saputo iniziare. Ma siamo una storia che non si può dire, non abbiamo niente di speciale. Non fosse che io ho paura di crescere e tu quella di nuotare. E sai dirmi che mi ami ma solo finché non si esce dall'ascensore. Eppure lo senti anche tu che abbiamo fatto lo stesso errore. Lo sai che chi ci dorme nei letti ha la bocca aperta per abboccare. Sai che è facile odiare il terremoto, il difficile è costruire. Sai che ho provato pena per te, non scegliere, scegliere di subire. Non è sognare che aiuta a vivere, è vivere che deve aiutarti a sognare. E allora tieniti pure la coperta, sono bravissimo ad avere freddo da solo. Tieniti il tuo egoismo discreto, se non sei capace di averlo alla luce del sole. Tieniti le mie parole, che hai 35 metri quadri da arredare. Anzi tienimi ancora i capelli, senza te non so più respirare. Ti ho segnato in un ufficio FS, cantavi in francese allo sportello reclami. Ti prendevano in giro tutti i miei amici travestiti da ballerine e da nani. Di che cosa hai paura davvero? Forse che la gatta scappi per le scale. Non sai quanto invidio gli animali, loro capiscono sempre da chi tornare. Vorrei una domenica pomeriggio per ogni lunedì che non ho saputo iniziare. Ma siamo una storia che non si può dire, non abbiamo niente di speciale. Non fosse che io ho paura di crescere e tu quella di nuotare. E sai dirmi che mi ami ma solo finché non si esce dall'ascensore. Eppure lo senti anche tu che abbiamo fatto lo stesso errore. Tipo di schiavo che non sarai.